nella terra, nel cuore a sospirar nel cuore torto. Non può sentir nel petto le smanie dell'affetto, nel cuore a sospirar. Nel buon azzurro. Thank you. Thank you.

andiamo al tempio, dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi d'onor ai sommi dei, qui del nostro gioir devisi il merto. Andiam, Melisa, da se lieti auspici, sperarmi giuro, per favor benvoli, il cielo ogni or sereno, la greggia lieta, il praticel più ameno. Thank you.

più bello il godimento, ne via torrento, ne via torrento vi tolga dal godere.

nostri incomi più bello il godimento, né via tormento, né via tormento vi tolga dal godere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。